Questa è Visionari. Ogni giovedì dalle 14 alle 15 su Radio Onda Rossa 87.900 la modulazione di frequenza. Tutte le informazioni potete trovarle sul sito della radio www.ondarossa.info alla voce trasmissioni. Visionari troverete, si aprirà la pagina magicamente e troverete lì gli ospiti di questa settimana, poi le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, il link per riascoltare la puntata precedente, per leggere interviste, recensioni, conferenze stampa e presentazioni, e poi le indicazioni sui film sul piccolo schermo per quanto riguarda la settimana televisiva. Cominciamo subito con i nostri ospiti di quest'oggi. Con noi Bruno Urso, co-regista del documentario La Baia dei Lupi, ben trovato. Pronto? Pronto? Eccoci qui, ora ti sento. Ciao a tutti. Come va, bene? Sì, va bene. Allora, guardando il programma di Arcipelago, ho visto che il vostro lavoro era tra quelli presenti nel festival ed ha ottenuto anche un riconoscimento. Sì, ha ottenuto una menzione speciale della giuria. Sì. Allora, per chi all'ascolto vuole saperne di più sulla vostra opera, di cosa parla il documentario? Sì, allora, diciamo La Baia dei Lupi è la storia del più grande polo petrolchimico in Italia, che è situato nella provincia nord di Siracusa. Sì. Diciamo, noi ci siamo limitati a raccontare la storia e le tappe che hanno portato alla costruzione del polo petrolchimico. Noi ci siamo limitati a raccontare i fatti, abbiamo evitato di prendere una posizione. Ci siamo chiesti il perché di tutto questo, cioè il perché il costruire un polo petrolchimico comporta la devastazione di un territorio, malattie, eccetera. Io né i miei colleghi siamo dei tecnici, ci siamo appoggiati al parere degli esperti per cercare di spiegare nel migliore dei modi la situazione. E questo atteggiamento il più possibile obiettivo, dove vi ha portato? Cosa avete scoperto? Allora, noi siamo partiti da un presupposto, soprattutto da siciliani. Ci siamo chiesti il perché la creazione di questo polo petrolchimico e perché, diciamo, non è stato fatto niente per tutelare la popolazione. Sì. Noi ci siamo chiesti se in Sicilia o anche in Italia, perché è un discorso che riguarda l'Italia, se è esistito un organo che ha tutelato la popolazione che su quel territorio ci ha vissuto. Sì. Perché non è un problema se il polo petrolchimico si sorge nella provincia nord di Siracusa, ma il polo petrolchimico serve a tutta l'Italia, perché lì viene raffinata la benzina, viene creata energia in senso lato. E abbiamo ripercorso storicamente tutta la costruzione del polo, ma soprattutto ci siamo concentrati anche sui nuovi progetti che sorgeranno nella zona. Sì. Siamo partiti dal passato, no? Perché ovviamente bisogna analizzare il passato per capire il presente, e ci siamo chiesti se i nuovi progetti che verranno realizzati su quel territorio aggraveranno ulteriormente la situazione. Ci siamo posti questo problema, di restare il più neutrali possibile, abbiamo semplicemente spiegato i fatti. Abbiamo raccontato la storia di un polo petrolchimico che non è molto conosciuto in Italia. In Italia sono conosciuti altri poli petrolchimici, come Porto Marghera, Taranto, eccetera. Oh, a questo proposito ti volevo chiedere, quali sono stati i maggiori danni ambientali prodotti in questa storia del polo petrolchimico? È la prima domanda. E la seconda è se i progetti futuri presentano dei rischi in proposito. Allora, sì, vabbè, i danni maggiori ovviamente hanno interessato il territorio, quindi l'inquinamento delle acque, delle falde, eccetera, e anche l'inquinamento dell'aria. Abbiamo una percentuale di malati di tumore molto alta. L'inquinamento delle acque, del mare, dei pesci ha portato anche alla nascita di molti bambini malformati. Diciamo, è un po' quello che si è visto in altri territori. Sì. Però, diciamo, se in altri territori, diciamo, storicamente abbiamo, cioè almeno sono stati portati alla ribalta della cronaca, lì diciamo non c'è stata da parte dei media in generale, diciamo, un grande interesse. E i nuovi progetti, in questo caso si tratta di un inceneritore, un rigassificatore, si vanno a localizzare un territorio già devastato. Un rigassificatore di per sé non è inquinante, il rigassificatore non inquina, perché però in un territorio già circondato da dalle ciminiere del polo industriale diventa rischioso, perché basta una perdita di gas per provocare un effetto domino. In più il territorio è un territorio sismico, un territorio altamente sismico, è anche un territorio in cui ci sono insediamenti NATO e insediamenti NATO con i sottomarini a testa nucleare, almeno fino a qualche anno fa. Ora non sappiamo bene cosa è stoccato in questi depositi. Diciamo, la situazione è molto complessa. È difficile anche parlarne così velocemente, perché sono tante tematiche, soprattutto la gente, certo, magari si crea confusione tra polo petrolchimico, rigassificatore, eccetera, perché non è addetto ai lavori, e diciamo si rischia di creare, diciamo, un miscuglio, si rischia di non spiegare molto bene la situazione. E se per quanto riguarda invece il dato occupazionale relativo al polo? Allora sì, diciamo, dall'occupazione inizialmente indubbiamente il polo industriale ha portato moltissimi posti di lavoro sul territorio. Sì. Con gli anni il polo industriale ha perso la sua forza, sono stati diversi da 30.000 occupati, sono usciti intorno ai 10.000. Quindi quella che era, diciamo, se il territorio era inquinato, però la gente almeno aveva, diciamo, trovava un'occupazione. In più negli ultimi anni abbiamo avuto anche un cambio per quanto riguarda, no, i contratti di lavoro, si è passato il lavoro a tempo determinato, siamo passati il lavoro in tempo indeterminato, tutto questo a scapito dei lavoratori. Quindi se inizialmente piangevi l'inquinamento però lavoravi, oggi non hai neanche questa certezza. Diciamo, il tuo lavoro è a termine, cioè 6 mesi, un anno e poi vieni licenziato. Bruno, come avete strutturato il lavoro? Ci sono interviste, la documentazione relativa alla storia del polo petrolchimico, dove l'avete reperita? Allora, diciamo, la tutta ricerca storica l'abbiamo fatta noi, però ci siamo serviti degli esperti, perché ovviamente io non sono esperto, non sono un chimico, non sono un biologo, certo. Quindi ci sono gli esperti intervistati. E poi ci siamo rifatti anche a tutto il materiale d'archivio. Abbiamo coinvolto anche giornalisti, associazioni che operano nel territorio, che ci hanno dato una grandissima mano, anche perché noi abbiamo fatto il documentario, però lì c'è gente che da 30 anni sta lottando. Quindi abbiamo cercato di dare più spazio possibile anche a loro, perché okay, a raccontare anche il loro lavoro. Ho capito. Senti, per avere informazioni in rete, dove avete un sito? Allora, sì, noi abbiamo un sito che è studionoise.com, però un altro sito molto interessante è quello di Maccarone, che è www.maccarone.da.ru, e lì troverete tutta la documentazione, quindi è la memoria storica del luogo. Lì troverete spiegata tutta la storia del polo petrolchimico, i fatti recenti e nuovi progetti che sono stati presentati in questi anni. Avete in programma proiezioni prossimamente? Allora dovremmo essere a Milano al MIS a settembre. Ok, va bene, allora in bocca al lupo e a risentirci, grazie, presto. Okay. Ciao Bruno. Ciao grazie. Bruno Urso, co-regista del documentario La Baia dei Lupi, a Visionari, Radio Onda Rossa. Thank you. sempre nell'ambito di Arcipelago, parliamo adesso di un altro documentario, Falsos Positivos, in compagnia di Simone Bruno, co-regista. Pronto, ci sei? Eccoci, come va? Pomeriggio a tutti, come va? Tutto bene, tutto bene. Senti, allora, prima abbiamo sentito Bruno Urso per La Baia dei Lupi, anche Falso Positivo è stato premiato ad Arcipelago. Sì, abbiamo ricevuto ad Arcipelago. Ti sento un po' disturbato, la linea che va e viene. Ok, vediamo se... Ecco, adesso è meglio. Ok, sì, abbiamo ricevuto un premio come miglior documentario d'Arcipelago. E insomma, che ci ha fatto molto contenti perché è un lavoro più che autoprodotto. Ho fatto io e Dado con l'aiuto di Roberto al montaggio, ed è una cosa proprio nata da noi. Di nuovo vai e vieni, dovresti trovare una posizione migliore per eccoci. Meglio qui? Sì. Adesso ti sento. Allora, Falsos Positivos, spiegaci un po' il titolo e anche il tema del lavoro. Sì, dunque il titolo è il nome di uno dei grandi scandali, e noi è il più grande, che sono avvenuti in Colombia della presidenza di Salvador. Che sarò No, Simone, ti sento male, ti sento male. Allora aspetta un attimo, facciamo. Proviamo una. Prenditi questo fisso, prova a chiamarmi il fisso, ti do okay, il numero. Un attimo, aspetta, sì. Resta in linea. Molto meglio con il fisso, allora. Allora Simone, dicevamo Falsos Positivos. Sì, dunque questo è il nome di uno scandalo, il più grande, ti dicevo, secondo noi, dell'era della presidenza Uribe in Colombia, ed è un nome che è stato dato dalla stampa e semplicemente vuol dire, insomma, è un po' il concetto quello medico di falso positivo, ossia si tratta di civili che venivano attirati con un inganno da dei reclutatori, normalmente scelti fra le persone più povere in cerca di un lavoro, comunque barboni, eccetera, e venivano poi portati in luoghi completamente sconosciuti a loro, cioè sì, in altre zone del paese a 500-600 km di distanza. Dopodiché venivano uccisi dall'esercito, vestiti come paramilitari oppure come guerriglieri, e presentati all'opinione pubblica come nemici abbattuti durante un combattimento. Quindi per questo si parlava di falso positivo, cioè un falso risultato positivo dell'esercito. È una storia piuttosto assurda. Sì, tra l'altro non ne ero proprio a conoscenza. E voi come ne siete venuti a conoscenza? Ma dunque, io vivo in Colombia, faccio il giornalista in Colombia da parecchi anni, vivo in Colombia da 7 anni. E ho cominciato a seguire questa storia da quando è esploso lo scandalo, da poco prima, insomma, Lo scandalo è esploso ad ottobre del 2008 e con è esploso grazie a dei casi famosi. Sono diventati famosi semplicemente perché si trattava di persone fatte sparire da Bogotà, quindi dalla capitale, e poi ritrovati, erano all'inizio 11 giovani, ritrovati in delle fosse comuni ad Ocaña, che era appunto a 500 km di distanza. Questo poi è stato, diciamo, la punta di un iceberg. Adesso si parla di quasi 2200-2300 casi. Ma riguardavano solo casi della guerriglia o anche del narcotraffico? No, cioè per risultati. Della guerriglia meno, perché quando si abbatte un guerrigliero, quando uccidono un guerrigliero in Colombia, insomma c'è un lavoro di intelligence piuttosto grande, quindi normalmente quando si uccide una persona si sa qual è il suo soprannome, il suo alias, qual è il suo ruolo nell'organizzazione. Arrivano organizzazioni internazionali che vogliono capire cosa è successo, eccetera. Invece nel caso del narcotraffico. Esatto, invece su questi gruppi, loro li chiamano i BACRIM, i gruppi criminali emergenti, non c'è uno studio che ti dice chi sono, non si sa nemmeno quali sono i gruppi, come sono organizzati, se hanno una struttura centrale, non si sa molto. E quindi era molto più facile farli passare per delinquenti comuni o comunque facenti parte di questi nuovi gruppi di narcotrafficanti. Senti, rispetto a questi casi, in che ordine di cifre siamo? Come? In che ordine di cifre siamo rispetto a questi casi? Ah, siamo intorno ai 2200-2300 casi di falsos positivos dal 2003 in poi. Senti, e che risultati ha portato l'emergere di questo scandalo? Insomma, la cosa è tragica perché i risultati sono stati praticamente inesistenti, a parte attenzione internazionale, il fatto che sono stati ridotti alcuni aiuti militari degli Stati Uniti verso alcuni delle brigate, dei battaglioni coinvolti in questi scandali. A parte questo, diciamo che quello che era il ministro della difesa del tempo è stato eletto lo scorso 20 giugno, è stato eletto prossimo presidente, entrerà in carica il 7 di agosto, Juan Manuel Santos. Quindi praticamente è stata ininfluente questa. Ininfluente. Sì, sì. Cioè la nostra voglia di fare il documentario è questo, perché in Colombia succedono talmente tante cose, sì, che uno scandalo cancella quello precedente. Sì, mi rendo conto. E insomma a noi ci era sembrato che questo fosse una cosa davvero troppo grave per farla passare così. Come avete lavorato? Dunque, la cosa è stata piuttosto casuale. Insomma, io avevo conosciuto Dado poco prima. E abbiamo parlato della storia, abbiamo parlato dell'idea di fare un documentario e l'abbiamo fatto veramente in pochi giorni. Noi abbiamo registrato tutto in più o meno 15 giorni, 15-20 giorni in Colombia, e poi ci siamo dedicati a montare il tutto. E, insomma, io direi da prima, cioè dalla pre-produzione fino al prodotto finito, ci abbiamo messo 3 o 4 mesi. Come avete organizzato il lavoro e su quali materiali avete lavorato? Dunque, io appunto, stando là in Colombia e avendo scritto del tema dall'inizio, avevo una serie di contatti che poi al momento in cui abbiamo deciso di fare il documentario ho utilizzato. Quindi ho creato una specie di, cioè, basandomi su degli articoli che avevo scritto, una specie di sceneggiatura. Sì. E, insomma, è il nostro primo lavoro, quindi appunto dico una specie di sceneggiatura, però poi insomma il lavoro è andato piuttosto bene, ha funzionato tutto bene quello che avevamo organizzato nel poco tempo che avevamo e con i pochi soldi siamo riusciti a fare tutto il lavoro. Avete fatto interviste, siete andati nei luoghi? Siamo riusciti a parlare con un po' con tutti, perché era il momento caldo di questo scandalo, quindi siamo riusciti addirittura ad intervistare uno dei generali che è stato cacciato dall'esercito, perché quando lo scandalo è diventato pubblico, in occasione della visita dell'Alto Commissionato per i diritti umani dell'ONU, quel giorno lei arrivava credo alle 9 di mattina, alle 6 di mattina il presidente e il ministro della difesa hanno fatto una conferenza stampa nella quale hanno cacciato, che è un fatto senza precedenti, 27 militari, inclusi 3 generali e 17 ufficiali, dall'esercito colombiano. per i casi di falso positivo. Mm-hmm. Noi siamo usciti ad intervistare uno di questi generali che ci ha detto molto candidamente, ha detto guarda, se per fortuna che mi hanno mandato via solo a me, perché io guardavo dove si sono verificati questi casi, se quello che è toccato a me doveva toccare a tutti, insomma rimanevamo senza generali nell'esercito. Poi abbiamo intervistato insomma le organizzazioni di vittime, e abbiamo due casi che sono quelli che seguiamo durante la storia di tutto il documentario, che sono la fidanzata di una delle vittime e il fratello di un'altra delle vittime, accomunati dal fatto che i loro cari sono stati trovati insieme, e addirittura il fratello di Hector era una persona che aveva dei problemi psicologici, non aveva nemmeno fatto il militare eccetera, l'hanno ucciso e gli hanno messo accanto un mitra che non aveva mai usato, non aveva proprio idea come si usavano. E poi abbiamo fatto una parte di interviste negli Stati Uniti, siamo andati al National Security Archive, dove ci sono dei documenti. Tu sai, il National Security Archive è questo centro di studi che si dedica alla declassificazione di documenti segreti degli Stati Uniti grazie al Freedom Act. Loro hanno una serie di documenti sino dalla metà degli anni Ottanta, in cui si parla di questa sindrome del body count in Colombia, quindi del uccidere civili e poi farli passare per nemici, per il nemico di turno, insomma. Come? Per il nemico di turno. Sì, la grande novità diciamo dello scandalo odierno è il fatto che questi qua venivano reclutati da una parte, portati dall'altra e ammazzati. Mm-hmm. Cioè un mercato di morti che camminavano, insomma. Sì, sì, sì. Senti, per saperne di più, c'è un sito vostro per il documentario che segue anche il calendario di proiezioni? Dunque, abbiamo una pagina su Facebook. Mm-hmm. Il sito lo stiamo rimettendo a posto adesso, però la pagina su Facebook si trova con Falso Positivo e lì ci sono le proiezioni e i canali man mano che comprano il documentario nei vari paesi, che si può vedere insomma dove sarà trasmesso. Bene Simone. Perfetto. Allora ti ringrazio, in bocca al lupo e facci sapere sempre. Perfetto, va bene, okay. Ciao. Grazie, ciao. Bene, questo era Simone Bruno, co-regista del documentario Falsos Positivos. Quest'oggi una specie di speciale marimetraggio arcipelago, perché abbiamo sentito già due registi di documentari presentati in questa edizione e ne sentiamo adesso un terzo, che è Roberto Salinas, regista del documentario L'alba del sesto sole. Pronto, buon pomeriggio, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Stai bene? Bene, bene, grazie. Allora, prima si parlava poco fa di Colombia e adesso si parla di Messico. Sì, sì, sì, sì. Il documentario che noi abbiamo presentato all'Arcipelago si chiama L'alba del sesto sole ed è praticamente il racconto del rapporto e del lavoro che fanno Loredana Cannata, attrice e attivista, e Massimo Tennenini, antropologo, nelle comunità occupate zapatiste del Messico. Senti, com'è nato il progetto, come l'hai sviluppato? Ma il progetto nasce da un'amicizia di vecchia data con Loredana, e principalmente era, insomma, il nostro è un piccolo contributo per raccontare il lavoro che loro fanno, sì, che in realtà è molto più importante del documentario, è appunto il loro lavoro, ed è un lavoro che loro svolgono fin dal 2005 in coordinamento con le comunità zapatiste. E principalmente si tratta di cercare in qualche modo di sostenere e appoggiare il lavoro che si svolge in queste comunità. In particolare loro si sono impegnati nel campo della sanità, perché è uno dei problemi gravi che hanno le comunità, e quindi dal 2005 raccolgono fondi in Italia per sostenere appunto il lavoro degli zapatisti in Messico. E da allora sono riusciti a realizzare, attraverso appunto questa raccolta fondi, ben 8 case di salute, piccole case di salute nelle comunità zapatiste. Quindi praticamente in Italia raccolgono fondi e lì aprono strutture mediche. E lì in collaborazione con le comunità stesse sì, aprono delle piccole case di salute, sono delle piccole cliniche attrezzate, e preparano i formatori di salute che poi le gestiranno per affrontare il problema della salute che in quelle zone è complicato. Senti, una parte del personale fa avanti e indietro, o ci sono anche persone che restano fisse lì a lavorare? Ma guarda, principalmente sono proprio Loredana e Massimo che si recano molto spesso in Chiapas. Mm-hmm. Massimo Tenenini è appena ritornato, Loredana credo che andrà a breve, e mantengono proprio un rapporto orizzontale, e questa è la cosa veramente molto bella che loro fanno. E è tutto svolto in collaborazione sulla base di assemblee, di dialogo vero e proprio con le basi d'appoggio zapatiste, per capire di volta in volta quali sono le necessità e cosa si può fare per aiutarli. Oh, proprio in base a questo tipo di rapporto è stata formata quindi una serie di persone, di zapatisti capaci di provvedere alla protezione medica della comunità. Sì, assolutamente. Loro appunto dal 2005 sono riusciti a mettere in piedi 8 case di salute con i formatori di salute. Sì. E quindi adesso possono, chiaramente queste sono strutture di primo soccorso, diciamo, per affrontare problemi che magari qui possono sembrare banali, ma che in realtà poi in quelle regioni diventano dei veri e propri, insomma, dei grossi problemi. Qui insomma, si può morire per infezioni o per intossicazioni alimentari, e ora questi problemi si stanno affrontando in questo modo. Insomma, la situazione è migliorata da quando loro lavorano. Senti, i casi più frequenti e più gravi rispetto al quadro medico globale? Sì, beh, proprio sono questo genere di malattie così, magari infezioni alimentari, ferite che poi generano infezioni e che non possono essere curate. Cioè, stiamo parlando di zone molto isolate, e dove la popolazione sono contadini alla fine, e quindi spesso magari lavorando nei campi si possono far male, c'è un'infezione che poi magari semplicemente con un antibiotico si curerebbe, e che magari invece quando non c'è questo primo soccorso diventa un problema quasi irrisolvibile. Questo modello di auto-organizzazione dal basso riesce a far presa anche nel mondo contadino esterno alle comunità? Beh, un po' sì, un po' no, nel senso che c'è chiaramente una resistenza che deriva a volte da pregiudizi. Uh-huh. Rispetto a quello che sono i zapatisti. Però loro, come sai, sono degli abili comunicatori, da sempre, dal 94 hanno saputo mettere in piedi molto bene una strategia di comunicazione, presentarsi all'esterno e farsi capire. Quindi spesso le comunità non sono al 100% zapatiste, però molti poi si avvicinano, e comunque tutta la comunità alla fine ne giova del lavoro che fanno gli zapatisti, perché chiaramente le case di salute attrezzate, per esempio, non è che sono solo per gli zapatisti, certo, sono per tutti. Certo. Senti, che tipo di attività è stata necessaria? Cosa hai fatto materialmente per il documentario? Ma per il documentario è stato, devo dire, per me molto bello farlo, realizzarlo, nel senso che si è trattato di seguire loro per 2 volte in Chiapas. Mm-hmm. E avvicinarmi anch'io a questa realtà, a cercare umilmente di raccontare quello che loro stanno facendo. E quindi poi, insomma, alla fine il viaggio è stato piacevole, interessante, io ne sono rimasto molto arricchito, insomma, ho conosciuto una realtà che non conoscevo bene e ho cercato di raccontarla meglio possibile. Quindi c'è stata, praticamente hai seguito loro 2, hai fatto anche interviste, come l'hai strutturato? Sì, abbiamo fatto, chiaramente abbiamo cercato di dare la voce il più possibile dal basso, sì. Quindi con i rappresentanti stessi delle comunità, i ragazzi che abbiamo incontrato, i rappresentanti della Junta del Buen Governo, che sarebbe l'autorità locale. E poi però nel momento di montare abbiamo anche arricchito il lavoro con del materiale d'archivio che ci ha fornito l'AMOD, l'Archivio del Movimento Operaio Democratico, E quindi abbiamo, diciamo, composto una narrazione che un pochino desse i parametri necessari per orientarsi in quello che è l'universo zapatista, però poi soprattutto raccontasse invece le basi d'appoggio zapatiste, cioè i veri e propri contadini che vivono in resistenza in queste comunità e di cui spesso non si parla, perché alla fine si parla molto del subcomandante Marcos e del lavoro delle ZLN, però poi pochi vanno a vedere effettivamente da ora, dopo dal 94, come si vive in queste comunità. Mm-hmm. Noi abbiamo cercato di raccontare un po' questo. Ecco, prospettive future rispetto alle comunità? Sai, lì poi è una lunga lotta. Loro dicono: noi siamo in resistenza e fin quando i diritti che loro reclamano, sai quali sono? Sono alla fine il possesso delle terre in cui vivono e lavorano e il diritto a continuare a mantenere la propria identità culturale. Mm-hmm. E questo chiaramente è un lungo percorso e loro sono stati e sono ancora un esempio di resistenza pacifica veramente enorme, grande. Rispetto al controllo del territorio, la loro area di influenza si sta allargando o viceversa invece sono... No, è più o meno stabile, devo dire, da questo punto di vista. Il governo messicano in qualche maniera ha un po' riconosciuto gli zapatisti, quasi a volte facendone un punto d'orgoglio, come dire: se in Messico abbiamo gli zapatisti e tolleriamo gli zapatisti vuol dire che siamo democratici e tolleranti, no? Sì. Però è anche vero che poi ci sono strategie trasversali, una guerra di bassa tensione, sì, a volte sì, messa in piedi attraverso gruppi paramilitari che un po', come dire, alla napoletana tuzzuleano, stimolano e cercano di creare focolai un po', insomma, di violenza per rialzare la tensione, no? E quindi in questo caso loro sono effettivamente un grande esempio di resistenza pacifica, perché cercano di non cedere a queste provocazioni e mantenere chiaro che il loro intento non è un intento militare, golpista, politico, è proprio un reclamare i propri diritti. Senti, è proprio rispetto a queste provocazioni, hai subito ostacoli da parte governativa? No, assolutamente, però è anche vero che noi siamo andati molto in incognito, nel senso che quando si va lì si cerca sempre di evitare, per esempio, se c'è un posto di blocco, di dire dove ci si sta recando, insomma di depistare un po', no? Certo. Per non incappare in problemi. Roberto, informazioni sul tuo documentario dove si trovano in rete? Le potrete trovare sulle pagine di Loredana Cannata e di Massimo Tennenini, che sono loredanacannata.com e massimotennenini.it, e poi credo che il documentario passerà anche al Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste ad ottobre, quindi è un'altra occasione per vederlo. Sì, tra l'altro noi ce ne occupiamo ogni anno, per ecco, cui... allora magari ci risentiamo. Benissimo. Allora Roberto, in bocca al lupo, grazie, e poi ci si risente a questo punto. Crepi, grazie a voi. Ciao. Roberto Salinas, regista del documentario L'alba del sesto sole. Parliamo adesso della Festa del Cinema del Reale, giunta alla settima edizione a Specchia, in provincia di Lecce, dal 21 al 24 luglio. Lo facciamo con Paolo Pisanelli, che torna con noi. Pronto, ci sei? Ci sono, buongiorno a tutti. Ben ritrovato, come va? Bene, a parte il caldo va benissimo. Allora, per chi non conosce la storia di questa festa, ci dici un po' di cosa si tratta? Festa di Cinema del Reale, l'hai detto, è alla settima edizione, Cuori, Pietre, Trasformazioni e il titolo, sono tre parole chiave dei film che proponiamo. È una festa di Cinema del Reale e forse anche la festa che ha sdoganato questo modo di chiamare, no? I vari generi differenti di cinema documentario. Sì. cinema del reale è sempre stata un po', diciamo, una definizione francese, no? Cinema du réel, vision du réel. Ecco, poi noi nel 2004 facciamo questa festa perché volevamo, io insomma, partendo dalla mia esperienza di filmmaker, però anche essendo socio di Big Sur, che è una società di comunicazione, un laboratorio di comunicazione, diciamo a vari livelli, no? Grafica, editoria, costruzione di eventi, così noi abbiamo pensato che era importante creare un appuntamento in cui si mettesse al centro tutto quello che riguarda il cinema del reale, appunto, cioè i generi differenti di cinema documentario, che vanno dal documentario di creazione, come dicono i francesi, alle inchieste storiche, ai film di montaggio, ai diari personali, tanti modi di raccontare il reale, le realtà che viviamo, e fare una festa che in qualche modo desse un premio agli autori che si battono per realizzare questo tipo di cinema, e anche tutte le persone che lo promuovono, che lo diffondono, quindi anche a produttori, a distributori, a persone che hanno scelto, diciamo, anche questo modo di raccontare il mondo, e anche di perché insomma, diciamo che non si tratta comunque di un cinema, no, dai grandi fatturati, non è il cinema industria questo è un cinema che ha un valore sociale forte, che sta accanto alle persone, ma spesso parte anche con pochi mezzi molto, molto più risicati, ecco. Quindi diciamo, non siamo proprio quelli che Brunetta e che Bondi, insomma, bersagliano con le loro parole il culturame parassitario, quelli che attingono 30-40 milioni per fare i film. Io non mi piace nemmeno fare contrapposizioni tra il cinema del reale e il cinema di finzione, però questa è un'edizione per noi in cui ci bruciano queste parole, queste parole così che sono vane, sono delle parole vane dette da, insomma, da persone che dovrebbero rappresentare la cultura e il lavoro in Italia, invece non lo rappresentano. Infatti comunque la situazione generale della produzione cinematografica italiana è molto dura, e se per il documentario l'è sempre stato, adesso diciamo comunque si sente fortemente questo problema, e quindi diciamo, è anche fare una festa, è anche un modo di, invece, di affermare una voglia di esistere e di continuare a produrre questo modo di fare cinema, questo modo di indagare le realtà sociali, i territori che si trasformano, le cose belle e le cose brutte, insomma, dell'Italia. Ma non solo dell'Italia. Senti Paolo, scusa se ti interrompo, no, ti volevo chiedere quante opere presenterete quest'anno? Bene, ne presentiamo tante, diciamo, dai film, diciamo, che hanno avuto anche un grande successo di premi e di pubblico, come il film di Pietro Marcello, La bocca del lupo, il film di Michelangelo Frammartino, Le quattro volte, che sono presentato a Cannes, però anche poi altri film, diciamo, anche di esordienti molto bravi, oppure di grandi autori del cinema che a volte sono stati dimenticati. Questa edizione è dedicata a Gianfranco Mingozzi, che era un nostro amico e compagno di viaggio, che è scomparso l'anno scorso, a ottobre, e che insomma c'ha un legame fortissimo col Salento, no? Si svolge tutto nel Salento, a Specchia. Però quest'anno verrà anche Daniele Vicari, Costanza Quadriglio, Stefano Favona con Piombo Fuso, Carlo Schinzi, che invece è più un video artista, Cinema del Reale contiene anche, insomma, anche l'irreale in qualche modo, quindi non è che siamo proprio apostoli del documentario classico. Sì. Poi ci sarà Chiara Iduta Scrimieri, Laura Lilovic, che ha fatto questo film Io, Woody Allen e la mia famiglia Rom, che prossimamente avremo ospite qui in trasmissione, perché un documentario mi interessava, insomma, sì. Ecco, diciamo, cuori, pietre, trasformazioni, questi sono questi temi, diciamo, di trasformazioni Si parla pure nel film di Daniele Vicari, che non è un film di quest'anno, è il mio paese, però sono film che giù non sono mai stati visti a volte, no? Quindi noi non pensiamo che bisogna per forza dare l'impulso all'ultimo film che è uscito o una prima, no, è una festa, gli autori che vengono invitati vengono premiati, però poi è l'occasione per vedere film come Allarmi siamo fascisti di Cecilia Mangini o La briglia sul collo. Allarmi siamo fascisti è un film di montaggio che nasceva proprio all'indomani della repressione di Tambroni, i morti di Reggio Emilia, i morti di Roma. Luglio 60. E quindi sono dei film eccezionali, importantissimi. Questo è stato un film clandestino che non si poteva proiettare, censurato. E quindi in questa sezione che è Cineteca di notte andiamo a riscoprire anche Cherkov, Vladimir Cherkov, che è un grande anche documentarista, ha fatto un'inchiesta negli anni 70 su Napoli eccezionale, no? In cui vedi, diciamo, 40 anni fa tutta una serie di problemi che oggi vedi amplificati. E quindi ci stanno scoperte come per esempio Elio Piccon, no? Uh-huh. Elio Piccon è un cineasta che ha girato molto nel Gargano e aveva fatto questo film eccezionale che però è invisibile perché è stato bloccato, ha avuto delle peripezie incredibili, censurato, L'antimiracolo. Questo film non lo possiamo vedere perché è tuttora bloccato, diciamo. Però abbiamo una serie di cortometraggi come Il campo, Il pantano e anche dei film più sperimentali dell'inizio degli anni 50 che un po' ti fanno conoscere un autore, tutto un mondo e anche un modo di raccontare il Sud che non è quello proprio anche di della retorica un po', no? dei documentari, perché se troviamo alcuni grandi autori, De Seta, la Cecilia Mangini, Lino Del Fra, Gandin, Di Gianni, ecco, ci stanno poi anche molta retorica nel modo di raccontare il Sud. Mm-hmm. E quindi questi autori ci aiutano un po' a vederlo da altre angolazioni e infatti poi noi faremo anche degli incontri. Uno degli incontri che sono incontri di poetiche e pratiche, uno sarà con Benny che è un grande montatore, insomma geniale per me, montatore del suono e non solo del suono, no? Ha montato diversi film tra cui appunto quello di San Martino e quello di Vicari che presentiamo, e poi invece un altro giorno ci sarà un incontro che riguarda proprio filmare il Sud, ci saranno a confronto delle produzioni che vengono dalla Copeam, quindi delle produzioni diciamo più delle emittenti televisive dell'area del Mediterraneo, come raccontano oggi le realtà del Mediterraneo attraverso gli sguardi dei bambini, e queste le confronteremo con altri film. Mm-hmm. E quindi anche per ragionare un po' su quello che è il modo di filmare il Sud, no? Sì, sì, il modo di filmare è anche, insomma, al di là delle retoriche di destra o di sinistra, insomma, che spesso poi hanno funestato l'immagine del Sud. Mm-hmm. Quindi un po' di questo parleremo anche con l'assessore all'urbanistica della Regione Puglia. Noi da quest'anno appunto siamo anche un festival del cinema documentario, abbiamo avuto un sostegno forte dall'Unione Europea e dalla Puglia Film Commission che penso che stia facendo un grande lavoro, insomma, non soltanto per quello che fanno, diciamo, normalmente le film commission, no? Che diciamo hanno una mission che riguarda un po' il marketing del territorio, il trovare delle possibilità di lavoro in ambito cinematografico, però insomma ha una grande attenzione anche verso il cinema del reale, il cinema documentario e quindi anche sul raccontare le storie del territorio di persone reali, quindi non solo la grande fiction. Mm-hmm. In qualche modo. Senti Paolo, In chiusura, per saperne di più sul programma, ci dai un sito di riferimento? Sì, www.cinemadelreale.it. Benissimo. Dal 21 al 24 luglio a Specchia, 10 km c'è il mare Ionio, poi se no c'è Santa Maria di Leuca, è un bel modo anche per vedere i film e anche per farsi dei bellissimi bagni. Aggiungo solo che oltre a questo ci stanno delle installazioni sonore di Antonio De Luca, mostre fotografiche bellissime sull'Aquila, una performance di Anima Ammersa, che è un gruppo dell'Aquila che racconta un po' quello che, diciamo, un anno vissuto all'Aquila. Tra sovraesposizione, diciamo, da parte dei media, poi abbandono e poi rivolta della città. Bene Paolo, in bocca al lupo e a risentirci. Grazie mille, arrivederci a tutti. Ciao, ciao, ciao. Paolo Pisanelli, per quanto riguarda la festa del Cinema del Reale, la 7ª edizione a Specchia, provincia di Lecce. Benvenuta Stefania Bianchi, direttrice dell'8ª edizione di Guerra e Pace Film Fest a Nettuno dal 19 al 25 luglio, eccoci qui. Grazie, benvenuti, grazie. Come va? Bene, molto bene, siamo bene. Pronti per l'8ª edizione del Guerra e Pace Film Fest. Allora, io parto dal manifesto del festival, una pietà di Michelangelo in versione mimetica abbastanza forte, d'impatto. Sì, è un visual che abbiamo trovato, che è realizzato da due artisti cubani che vivono a Miami e rappresenta la pietà di Michelangelo naturalmente con due soldati, quindi è proprio il simbolo dell'orrore della guerra. Senti, Guerra e Pace Film Fest, un festival che si occupa di film che trattano di questo argomento. Sì, il tema sono film di guerra e di pace ed è un modo proprio per riflettere su un tema rilevante ed attuale come è la guerra oggi. Quindi costruiamo un percorso cinematografico ma anche culturale, perché non ci sono soltanto film per il nostro pubblico, per i nostri spettatori. Oh, i film vengono da varie parti del mondo? Allora, i film che abbiamo selezionato seguono un preciso percorso. Quest'anno il percorso sono le visioni di guerra, proprio per raccontare attraverso lo sguardo degli autori più interessanti del panorama cinematografico attuale, da Tanovic a Quentin Tarantino, la loro visione, il loro punto di vista sui conflitti di ieri e di oggi. Mm-hmm. Senti, visto che siamo all'8ª edizione, che percorso ha avuto dal punto di vista artistico, cinematografico, la guerra, come viene percepita e rappresentata? Nelle opere che avete proposto. Insomma. Allora, naturalmente la guerra è rappresentata con molte sue sfaccettature e proprio il percorso che noi abbiamo costruito mette praticamente in risalto le complessità e le contraddizioni della guerra. Avremo, che ne so, la guerra inimmaginabile raccontata da Samuel Mauze in Lebanon col suo messaggio pacifista molto importante che va proprio diritto al cuore dello spettatore, o ad esempio gli orrori psicologici e fisici della guerra raccontata da Tanovic in Triage. Quindi ogni film racconta proprio la complessità e le contraddizioni della guerra e lo fa proprio da un punto di vista particolare e anche originale. Mm-hmm. Puntate anche a un pubblico giovane? Sì, puntiamo soprattutto ad un pubblico giovane, soprattutto per dargli la possibilità di avere consapevolezza attraverso quello che è lo strumento, la grande forza emotiva del cinema, di conoscere i grandi fatti della storia contemporanea e passata. Senti, per quanto riguarda il programma, dove è consultabile? C'è un sito del festival? Certo che c'è un sito del festival con il programma e tutte le altre iniziative e il nostro sito è www.guerrepacefilmfest.it. Perché come ti dicevo non ci sono soltanto film, perché il Guerra e Pace è aperto alle diverse espressioni cinematografiche, per cui vengono presentati documentari in collaborazione con Cinecittà Luce, quest'anno anche una raccolta di trailer di film italiani di guerra e ci saranno mostre, quindi è un programma articolato e anche libri sul tema naturalmente. Bene, bene. Allora in bocca al lupo e a risentirci. Grazie, a risentirci. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Ciao Stefania. Ciao, ciao, ciao, ciao. Stefania Bianchi, direttrice dell'ottava edizione del Guerra e Pace Film Fest a Nettuno dal 19 al 25 luglio. Carlo Zappoli, direttore della 61esima edizione di Film Video Montecatini, mostra internazionale del cortometraggio dal 15 al 17 luglio, quindi si comincia oggi. Ben trovato. Ben trovato a voi. Anzi, ben ritrovato, perché ci siamo... Eh sì, ormai sono 8 anni. Allora, raccontaci un po' le caratteristiche di questo festival. Beh, le caratteristiche di questo festival, già il fatto che è la 61esima edizione, lo caratterizza per la longevità e per la tenuta, per la resistenza anche, diciamo. Cortometraggio, continuiamo a crederci. Quest'anno abbiamo ricevuto circa 1200 corti da 68 nazioni in concorso, visto che abbiamo un'edizione raccorciata per motivi economici che un po' tutti soffrono in questo periodo. Certo, è un motivo conduttore, guarda. Esatto, abbiamo 71 corti in concorso, divisi per fiction, animazione, sperimentale, videoclip e documentario. Oh, io a questo punto volevo chiederti se in questa, appunto, ottava edizione che ti vede coinvolto, stai notando una via d'uscita per quanto riguarda la fruizione del cortometraggio? C'era, per esempio, c'è stata anche la sperimentazione del corto abbinato ad un film in sala. Come sta andando? Non lo so, io so che il circuito microcinema ci ha provato e quando ci ha provato con del materiale di qualità ha avuto una buona risposta. Sì. Diciamo che in linea generale in Italia, ma è un fatto che attraversa tutta la cultura italiana. Faccio un esempio: un po' di anni fa Tabucchi, autore di Sostiene Pereira, io ho tenuto un incontro con lui, era reduce del successo di Sostiene Pereira. Ma mi ha detto: secondo lei, se io adesso propongo al mio editore una raccolta di racconti, me la pubblica? Cioè, no, non me la pubblica perché in Italia il racconto breve non va. Te l'hanno pubblicata adesso, dopo anni e anni. Cioè, abbiamo un modo di fruizione che dice: no, ma io devo andare adesso a questa roba che dura un quarto d'ora. Sai, invece c'è al contrario, se posso citare un aneddoto vero, un autore russo, c'è chi dice Tolstoi, c'è chi dice Gogol, un giorno scrisse una lettera di 5 pagine a un amico. Sì. E in fondo ci mise: caro amico, scusami se ti ho scritto questa lunga lettera, ma non avevo il tempo per scriverti una breve. Cioè, non avevo il tempo di concentrarmi, di sapere di preciso cosa ti volevo dire e di dirtelo. Senti Giancarlo, come vie ci sono i festival, c'è ipotetici passaggi televisivi, c'è la rete, però forse la rete è uno delle vie che potrebbero percorrere i cortometraggi. Ma la rete, secondo me, è una via che già percorrono i cortometraggi anche con abbastanza buoni esiti. Chi funziona concorsi online ottiene anche abbastanza dei buoni ritorni. È in particolare da noi, perché io sono stato in Francia, a Clermont-Ferrand, eccetera, cioè le sale sono piene di pubblico. Sì. Perché c'è una cultura, perché ci sono sale che settimanalmente proiettano corti, perché ci sono diverse scuole di cinema che ovviamente realizzano corti. Da noi sono anche pochi registi che tornano al corto. Noi stasera dovremmo avere qua, dovremmo, perché è impegnato in riprese che forse hanno un ritardo, ma dovremmo avere Papi Corsicato, con un suo corto, e voglio dire, ha fatto una fila di lunghi e adesso poi torna al corto. Ecco, uno dei problemi rispetto agli autori qui in Italia è che il cortometraggio viene concepito spesso come trampolino di lancio per il film, per il lungo. Invece non gli viene data una dignità autonoma, cioè, di opera. Io scrivo un corto perché so raccontare in 10 minuti, in un quarto d'ora. Una cosa di più, da me in Italia c'è anche un altro problema: il fatto che la democratizzazione del mezzo, cioè il fatto che con non tantissimi soldi, col digitale, monti sul computer eccetera, ha fatto non solo allargare il territorio, ma questo va benone, ha fatto dilatare i tempi. Sì. Per cui se potevo raccontare una cosa in 5 minuti, la racconto in 25. Peccato che dopo il quinto minuto si capisce cosa voglio raccontare. Senti Giancarlo, allora rispetto al programma, una 3 giorni intensiva. Esatto, intensiva, con stasera appunto corti col product placement della pasta Garofalo, poi una serata sull'Eros, che raccomando, nel senso, le forme brevi dell'Eros rivelano un sacco di cose interessanti. Domani sera una serata, noi più preveggenti del Polpo Paul, un mese fa avevamo già deciso di dedicare un omaggio alla Spagna, e sarà domani sera, per esempio con un premio del pubblico, pertanto il pubblico in sala deciderà qual è il film migliore in quel caso. E poi mi permetto di segnalare anche sabato pomeriggio, visto che l'Iran è uno dei temi caldi nella politica internazionale, abbiamo una decina di corti iraniani che dimostrano come sotto poi la società iraniana davvero stia diventando complessa e non sia quel monolite che certuni vorrebbero che fosse. Ci dai anche gli estremi del sito per il programma? Io un lancettino lo farei, ma di uno, ma tanto ormai la giuria ha già votato, per cui non influenzo su nessuno. E cioè sabato mattina noi presentiamo un cortometraggio documentario di 20 minuti, prima assoluta dell'Italia, in cui un signore di origine congolese, ormai anziano, racconta con tanto di immagini che lui fu, quando Che Guevara lasciò Cuba e andò a cercare di sollevare la rivoluzione in Congo dopo che era stato ucciso Lumumba, lui fu ragazzino, il suo interprete in Swahili. Il CE poi lo prese, fallito questo tentativo, lo portò questo traduttore, però non è potuto rientrare in Congo, e c'è questa memoria assolutamente inedita sul punto di vista di un personaggio che comunque la si veda da un punto di vista politico, ecco, che ha segnato la storia contemporanea. Bene, allora ti chiedevo il sito internet per il programma. Filmvideo Montecatini. Benissimo, allora in bocca al lupo, un abbraccio. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Giancarlo Zappoli, direttore della 61esima edizione del Film Video Montecatini, mostra internazionale del cortometraggio dal 15 al 17 luglio. Ora dell'ottava edizione del Salento Finibus Terre con il direttore Romeo Conte. 5 località del Salento dal 17 luglio al 1 agosto, ben trovato. Buongiorno a tutti, come state? Bene. Caldo terribile in anche, Puglia, anche però qui sta bene. C'è un po' di venticello, dai. Allora, sparso nel territorio del Salento, 5 luoghi, raccontaci un po' le caratteristiche del Salento Finibus Terre. Beh, quest'anno diciamo c'è una svolta decisiva, perché dopo gli esperimenti che abbiamo fatto gli anni passati andando in terra di Lecce, abbiamo deciso insieme di concentrarsi sulla provincia di Brindisi. Ci sono 3 comuni nuovi, c'è Ostuni, Celli e Fasano, che si aggiungono a Carovigno e a San Vito dei Normanni. Da sabato prossimo al 1 d'agosto scorazzeremo nell'Alto Salento con 160 cortometraggi. Qui c'è grande attesa, la gente ci chiede, è molto carino. La novità di quest'anno è che abbiamo realizzato un movie village a San Vito dei Normanni, dove ci saranno 9 incontri con i vari personaggi, ospiti, dove si parlerà di cinema, di cucina, di diritti umani, di ambiente, di tante cose, dove tutti possono intervenire naturalmente. Oh, immagino anche incontri con gli autori. Beh, certo, è ovvio, sì, il primo incontro sarà domenica con Maurizio Nichetti, poi seguirà con Ilia Politoskova, il figlio di Anna Politoskova, la giornalista assassinata nel 2006 a Mosca, non sapete già di che cosa si parla per quanto riguarda i diritti umani, come avremo l'incontro con Zeman, con Pasquale Casillo sul film di Zemanlandia girato da Giuseppe Sanson, poi si arriverà alla mostra di Dario Argento con Franco Bellomo e la Tursi, i grandi fotografi, dove qui a Carovigno faremo una mostra proprio su Dario Argento, sui grandi film di Dario Argento. Si arriverà poi con Alessandro Benvenuti, tanti personaggi, dove a parte nomi noti, ma il mio interesse è che poi partecipino anche i giovani autori, quelli che il nostro festival come missione è quella di far conoscere i nuovi talenti al mondo intero, ecco. Bene, allora ci dai anche il sito internet del festival? Il sito del festival è www.salentofinibusterrae.it o .com. Benissimo. Poi siamo anche su Facebook, insomma, più numerosi ci sostenete, più forza avremo anche nel far bene il nostro lavoro, per tutti noi e tutti voi soprattutto. Bene, 5 località del Salento dal 17 luglio al 1 agosto, in bocca al lupo. Grazie Crepi, io vi aspetto tutti in Salento, qui fa caldo però c'è molto vento. Ciao Romeo, alla prossima. Grazie a voi, ciao. E siamo in chiusura per quanto riguarda Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.900 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Per saperne di più sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, alla voce Visionari, troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite del weekend cinematografico venerdì 16 luglio, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, ma anche i nostri suggerimenti sui film in programmazione in televisione per quanto riguarda la settimana TV, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, per leggere interviste, recensioni, conferenze stampa e presentazioni.